Cominciamo la caccia senza sigla. Vai, Oliva. E l'indice? Ah beh, è vero. Parleremo di rappresentanze, di candidature aleatorie, di proprietà e di competenze vaticane, se il tempo ce lo permetterà. Buon ascolto.